Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico, siamo tornati in una di 451 intersezioni, un saluto e una buona serata da Elisio Scarpa che condurrà la puntata di questa sera. Siamo mancati lunedì scorso, ma vi avevamo già avvertito, almeno i pochi e chissà mai i tanti affezionati a questo nuovo programma 451 intersezioni che va in onda sempre sulle frequenze di Radio Città Fucico ogni lunedì dalle 20 alle 21. Ricordiamo anche il nostro network che comprende, oltre a questa trasmissione, anche 451 frammenti sonori condotta dal compagno amico Max Macchia, che saluto qua sulle onde di Radio Città Fucico, che va in onda sempre su Radio Città Fucico ogni mercoledì da mezzanotte alle 2 di notte. Inoltre abbiamo il blog, che è il sito che inserisce tutte le puntate sia di 451 intersezioni che 451 frammenti sonori. Lì potrete trovare le puntate e ovviamente le scalette dei brani degli autori inseriti nelle varie trasmissioni e anche qualche altra notizia interessante. Il nostro blog, no blog, è 451frammentisonori.noblogs.org, dove potrete trovare queste informazioni. Bene, entriamo nel merito in queste giornate torride afose, non vi dico cos'è qua in radio, abbiamo aperto tutto quello che possiamo per riuscire a respirare, ma se continuiamo così rischiamo di non farcela entro giugno a continuare le puntate di 451, soprattutto intersezione, perché ancora alle 8, dalle 8 alle 9 c'è ancora parecchio caldo, ma vedremo di resistere in questo torrido giugno che è iniziato proprio con un gran caldo, in un clima sicuramente abbastanza pesante dal punto di vista economico, sociale e politico in questo paese, dove abbiamo un governo che continua ad andare avanti, modello diciamo ricorda qualche cosa, ricorda un passato abbastanza remoto che abbiamo anche combattuto, in particolar modo l'ambito di sinistra, e parliamo del ventennio, ricorda molte cose questo caro Renzi e il suo governo di personaggi sempre più legati ai poteri capitalistici e dominanti in Italia e in Europa. Vedremo se l'opposizione sociale e politica di movimento riuscirà a crescere, riuscirà a dare delle risposte a una situazione veramente pesante che viviamo anche qua a Bologna, perché gli sgomberi, gli arresti e le denunce sono all'ordine del giorno, un problema che viene individuato dalle autorità cittadine, politiche e dalle istituzioni come un problema, in realtà è una rivendicazione di diritti che vengono costantemente sottratti, oltre al reddito, al salario dignitoso e garantito. Il problema della casa è sempre più stringente, sempre più famiglie, persone che perdono lavoro, che non hanno reddito, non riescono più a permettersi una casa, e ovviamente le istituzioni e i poteri immobiliari bloccano ogni tipo di possibilità. Chiaramente qualcuno si organizza, anzi si auto organizza e occupa, e poi viene chiaramente condannato, denunciato e qualche volta anche arrestato. Qualche tempo fa ci sono stati, l'abbiamo detto anche nella trasmissione, ben 5 arresti domiciliari a 5 attivisti del collettivo OBO, a cui diamo ancora massima solidarietà, oltre a 2 provvedimenti di confino. Parliamo proprio di confino perché in realtà è un divieto di dimora nella città di Bologna, ma ricorda il vecchio provvedimento del confino di memoria fascista. Bene, speriamo che, anzi male, speriamo che qualcosa si muova a livello sociale, a livello di organizzazione di movimento, che riesca a continuare queste battaglie assolutamente necessarie e assolutamente legittime. Bene, dopo questo piccolo excursus mi volevo togliere questo sassolino dalle scarpe, che ovviamente sono sempre più affaticate dal caldo, ma sicuramente il grande compagno amico Pierantonio, che ci ha lasciato un anno fa, che spesso utilizzava all'interno dello spazio radiofonico la trasmissione Intersezione, abbiamo voluto continuare questa memoria politico, storica e anche legata amicale nei confronti di Pierantonio, chiamando questo spazio 451 intersezioni. Bene, in passato spesso Pierantonio partiva con queste analisi e questi commenti politici che riguardavano la realtà bolognese italiana, perché comunque lui non scollegava mai l'aspetto musicale e anche sperimentale avanguardistico con l'aspetto anche politico, come facciamo d'altronde noi, d'altronde eravamo estremamente legati, amici, sia in termini di trasmissione che in termini termini proprio personali. Bene, entriamo a questo punto dentro la materia di stasera, una materia abbastanza particolare, anche estranea dai titoli, dei programmi, delle tematiche che abbiamo spesso utilizzato nel Network 451. L'abbiamo chiamata, anzi l'ho chiamata Orchestre Possibili, e affronterà, diciamo, in un percorso con quattro grandissimi autori un ambito che non frequentemente inseriamo all'interno degli spazi di 451, cioè l'aspetto orchestrale. Dunque abbiamo sia degli autori che sono stati, diciamo, riposizionati, reinterpretati a livello orchestrale su composizioni che alle volte erano semplicemente pianistiche o addirittura improvvisative, in un'ottica orchestrale, e sia vere e proprie composizioni avanguardistiche, sperimentali, soprattutto legate all'ambito della contemporanea, del jazz d'avanguardia, in un'ottica invece orchestrale, proprio dallo stesso autore, dallo stesso compositore. E partiamo con un nome gigantesco che ha già attraversato 451 intersezioni due puntate fa, cioè il grande e impareggiabile, potremmo dire, Erik Satie. Erik Satie, compositore fondamentale della fine 800 inizio 900, francese, nato nel 1866 e morto nel 1925. In questa sua breve vita ha realizzato delle composizioni uniche, assolutamente avanguardistiche rispetto alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, che ancora sono estremamente seminali per moltissimi sperimentatori, ed è stato, possiamo dire, il padre ante litteram del minimalismo, della corrente musicale legata alla contemporanea, che ha portato avanti tutto il percorso minimalista, soprattutto dagli anni 50, 60, 70, che ha visto tra i grandi autori John Cage, ma tantissimi altri come Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley e tantissimi altri. Ancora adesso, per molti aspetti, anche nell'ambito dell'elettronica e della sperimentazione in generale, Erik Satie rimane un punto di riferimento. Ecco, Erik Satie, che è un pianista che ha sviluppato fondamentalmente composizioni pianistiche ma anche orchestrali, lo andiamo ad ascoltare in una vera e propria reinterpretazione da parte dell'Orchestra Symphonique et Lyrique de Nancy del 2011, con una delle sue grandi composizioni assolutamente fondamentali, cioè Gymnopédie, composizione del 1888, rielaborata in un'ottica orchestrale, secondo me anche estremamente riuscita l'interpretazione dell'Orchestra Sinfonica di Nancy, che sviluppa il tema e la liricità e il grande intimismo di Erik Satie in maniera assolutamente originale e particolare, secondo me piuttosto azzeccata. Spesso le reinterpretazioni orchestrali di Satie non sono state particolarmente brillanti, svilendo anche un po' l'anima e l'attitudine di Erik Satie. In questo caso, almeno secondo il mio modesto parere, lo sviluppo orchestrale riesce assolutamente a rendere originale e particolare, interpretandola in un'ottica quasi nuova, in un'ottica di una composizione quasi estrapolata e innovativa rispetto all'originale. Dunque merita almeno di essere ascoltata, e dunque faremo un vero e proprio percorso orchestrale dentro questo universo, che vedrà grandi autori dopo il grande, grandissimo Erik Satie. Dunque ci andiamo ad ascoltare Gymnopédie, composizione del 1888, realizzata dall'Orchestra Sinfonica e Lirica di Nancy nel 2011. Buon ascolto. Thank you. E siamo rientrati in diretta sulle note, ancora in sottofondo, di Erik Satie al piano, chiaramente interpretato da ovviamente il grande Schleiermacher, pianista che si è dedicato spesso alle interpretazioni e alla rielaborazione di Erik Satie e di tanti altri compositori anche dimenticati del Novecento. E abbiamo ascoltato questa splendida interpretazione, ricordiamo ancora, dell'orchestra di Nancy, l'orchestra sinfonica e lirica di Nancy del 2011, della composizione splendida Gnopédie di Erik Satie, datata 1881. E continuando il nostro percorso dentro le orchestre possibili, andiamo proprio a trovare il prosecutore, potremmo dire, del lavoro, delle sperimentazioni di Erik Satie nel Novecento, il grandissimo John Cage, nato nel 1912 e deceduto nel 1992, uno dei veri e propri padri del minimalismo, grande sperimentatore, già dagli anni, fine anni 40, inizio anni 50, ha elaborato delle sperimentazioni soprattutto sul piano, costruendo e decostruendo il pianoforte, costruendo il cosiddetto piano preparato con modificazioni strutturali proprio fisiche al pianoforte, costruendo un vero e proprio laboratorio sonoro attraverso i martelletti, attraverso l'inserimento di oggetti e di quant'altro sopra il piano, costruendo delle composizioni che hanno oltretutto raggiunto anche il massimo della provocazione del parossismo con 4 minuti 33 di silenzio totale da parte di John Cage per quasi significare l'importanza del silenzio, della pausa nella musica. E John Cage non lo potevamo sottrarre a questa puntata, anche perché una delle ultimissime opere, anzi l'ultima opera prima di morire, è proprio dedicata interamente a una composizione orchestrale. John Cage, appunto, che ha segnato la musica d'avanguardia e sperimentazione sperimentativa del Novecento, nel 1992 compone questa opera The Seasons, proprio poco prima della sua morte, avvenuta il 12 agosto del 1992. E questa opera è stata rielaborata, riprodotta e riportata in qualche modo alla luce nel 2000 con l'album proprio The Seasons di John Cage, della ACM Records. Manfred Eicher ci teneva parecchio a sviluppare questo album, che oltre a inserire all'interno l'opera The Season, presenta anche altre opere elaborate da John Cage per orchestra, e costruendo questo lavoro nel 2000 che è uscito, e l'orchestra che esegue le composizioni di John Cage, che viaggiano dal 1947 fino al 1992, tutte opere costruite per orchestra da parte di John Cage, è stata realizzata dall'American Composers Orchestra con il direttore d'orchestra Dennis Russell Davis. E ci andiamo proprio ad ascoltare quest'opera, quest'ultimissima opera di John Cage, The Season, datata 1992. Ce l'andiamo ad ascoltare e ovviamente, come al solito, buon ascolto. Thank you. Ed eccoci, siamo rientrati in diretta dopo questa fantastica, splendida composizione di John Cage, The Seasons, ultima composizione del grande autore americano, 1992, ricordiamo ancora, esecuzione dell'American Composers Orchestra. E dopo il grande John Cage entriamo invece nell'universo più legato al jazz, anche se un jazz d'avanguardia e anche chiaramente molto interfacciato alla musica contemporanea, e andiamo a pescare un altro grande autore importantissimo nella scena della sperimentazione del jazz improvvisativo e di un jazz molto molto intrecciato con la contemporanea del Novecento. Parliamo di Anthony Braxton, nato a Chicago nel 1946, ancora in vita, l'unico di questo quartetto di questa sera ancora vivente, e speriamo ancora per tanto, perché continua a essere estremamente ricco di idee e di energie, è ancora sulla scena, è ancora, continua a sperimentare, a ricercare, lavorando anche con autori e musicisti della scena elettronica più sperimentale. Ricordiamo l'album splendido con Wolf Eyes, uno dei prodotti musicali di ricerca e di sperimentazione elettronica rumorista con chiare matrici industriali, che si è sviluppato negli anni zero, uno dei progetti più interessanti della scena americana noise. E Anthony Braxton, appunto, poliedrico, eclettico e assolutamente aperto, a un'età ancora, a un'età abbastanza avanzata comunque, a sperimentare anche con autori, musicisti che potrebbero sembrare al primo acchito molto distanti dalla storia di Anthony Braxton. In realtà non è così. Anthony Braxton ha realizzato anche molte composizioni per orchestra, ha elaborato anche dal lontano 1968 un'orchestra interamente di fiati, delle composizioni straordinarie, ricordiamo in particolare Free Composition of New Jazz per la Delmark, uscito proprio nel 68, ma anche tante altre sperimentazioni e composizioni di tipo orchestrale dagli anni 60 fino ad oggi. In particolar modo andiamo a presentare stasera una vera e propria composizione di Anthony Braxton e Walter Thompson, dedicato appunto all'orchestra, un'orchestra che attraversa anche archi nonché fiati, Suite of Six Live Composition 4, elaborata nel 2001. Ci andiamo proprio ad ascoltare Anthony Braxton, dunque un'altra faccia dell'aspetto delle orchestre possibili, più legata alla matrice, al territorio jazzistico, anche se definirlo jazzistico è molto limitativo per quanto riguarda Braxton, ma per avere almeno un punto di riferimento, un punto di aggancio per spiegare questo lavoro splendido di Braxton. Andiamocela a sentire dunque, Suite of Six Live Composition 4. Thank you. abbiamo brutalmente sfumato questa composizione, anche perché purtroppo dura ben 40 minuti, dunque il tempo c'è tiranno, la nostra ora non può permetterci un vero e proprio percorso di 40 minuti. Abbiamo ascoltato un estratto da questa splendida opera di Anthony Braxton e Walter Thompson, Suite of Sax Live Composition for 2001. E chiudendo velocemente, purtroppo perché il tempo è rimasto ben poco, di tempo ne è rimasto ben poco, per presentare un grandissimo della musica contemporanea, estremamente impegnato anche dal punto di vista politico, famosissimo la sua composizione, la sua opera del 1969, non consumiamo Marx, insomma già il titolo fa presagire il suo impegno politico, che è sempre stato intrecciata la sua sperimentazione musicale, le sue composizioni contemporanee legate anche molto alla musica elettronica. E parliamo del grandissimo Luigi Nono, compositore italiano nato nel 1924 e deceduto nel 1992 come John Cage. Abbiamo estratto dalle grandi e numerosissime opere fondamentali di Luigi Nono un'opera splendida del 1956, Il canto sospeso, che è un vero e proprio canto di memoria e di ricordo rispetto alle tragiche deportazioni ai campi di concentramento di tantissimi prigionieri ebrei, comunisti, rom, insomma, anche perché questo è un tema che ultimamente è stato abbastanza sul piatto durante le elezioni. Qualcuno ovviamente ha speculato, i nuovi fascisti del nuovo millennio e vari leghisti che continuano a fare caccia a rom, all'immigrato, al profugo. Dire che questa opera può ricordarci veramente cos'è stato lo sterminio dei nazisti e quello che è avvenuto appunto durante la seconda guerra mondiale. Questa è un'opera splendida, anche estremamente suggestiva e forte dal punto di vista emotivo, Il canto sospeso del 1956, eseguito dalla Berliner Philharmoniker Orchestra nel 2011. Chiuderemo così il nostro percorso, questo primo passo dentro le orchestre possibili. Chissà nella prossima stagione se recupereremo questo tema per svilupparlo con altri autori e altre composizioni. Spero che questa anomala serata legata alle orchestrazioni vi sia piaciuta, abbiate ritenuto che sia stata interessante, vi abbia attraversato a livello sonoro, a livello di onde, a livello di emozioni. Una buona serata e un buon ascolto con i programmi che ci saranno successivamente a 451 intersezioni su Radio Città Fujiko, e vi aspetto ovviamente come ogni lunedì dalle 20 alle 21 per 451 intersezioni. Vi auguro una buona serata e vi lascio con Luigi Nono, Il canto sospeso.